d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Saccheria Fratelli Franceschetti. Imballaggi flessibili nell'era del 4.0. Di Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi arriva dalle campagne della Francia Corta. Questa volta però non si tratta di Prosecco, ma di una realtà imprenditoriale nel campo degli imballaggi flessibili. La saccheria Fratelli Franceschetti nasce 80 anni fa a Provaglio d'Iseo, in provincia di Brescia. A svelarci come si è arrivati dalla raccolta porta a porta di sacchi in juta all'innovazione dell'intelligenza artificiale è Luigi Franceschetti, amministratore delegato dell'azienda. La saccheria Franceschetti è iniziata con un carretto con mio nonno Luigi che andava a ritirare i sacchi in juta nei mulini a Brescia. Li portava a casa, li riparava in casa e poi li rivendeva, i sacchi in juta vegetale. Poi è stata costituita verso la fine degli anni 30. Durante la guerra ha continuato a lavorare come se nulla fosse. Infatti la zona dove siamo, che è la Francia Corta, in realtà non, in provincia di Brescia, è stata relativamente colpita dalla guerra. In realtà era una zona abbastanza povera nel contesto bresciano ed è continuato tutto il commercio dei sacchi in materia vegetale, cioè in juta. Mio nonno recuperava questi sacchi dai mulini, dalla farina, e faceva un lavoro che adesso va di moda, cioè riciclava. Cioè prendeva il sacco e poi lo cuciva lui. Era il figlio del capotreno di Provaglio d'Iseo, che è il paese dove ancora adesso c'è saccheria, e poi li rivendeva di nuovo agli stessi mulini dopo averli riparati. A cavallo tra le due guerre, nonno Luigi continua a lavorare da solo nella sua piccola attività. I figli, Bruno e Giacomo, nascono proprio in quegli anni. E bisognerà arrivare agli anni 60 per vederli entrare in azienda a fianco del padre, con un ruolo attivo che proietterà l'azienda nel futuro. Il vero cambiamento è stato negli anni 60. Entrano a lavorare mio padre Giacomo, mio zio Bruno. Mio padre Giacomo si laurea all'Università Cattolica di Milano negli anni 50 e fa la tesi sull'evoluzione del sacco, intuendo che il sacco poi sarebbe diventato in materiale sintetico. E quindi negli anni 60 comincia la lavorazione del sacco in raffia. La raffia, per intenderci, è quel tessuto dei sacchi dell'IKEA, quelli blu. Non è il sacco in polietilene, quello nero, è quel sacco intrecciato che adesso viene utilizzato perché può essere riutilizzato più volte. L'azienda comincia a dotarsi di un'organizzazione più strutturata, anche a livello tecnologico, mentre il lavoro di tutti i giorni porta a un ampliamento dell'organico. Tra gli anni 60 e 70 si abbandona la dimensione puramente artigianale per diventare impresa. Per la saccheria è il momento di una nuova fase. Negli anni 70 comincia l'evoluzione successiva, che è quella dei big bag, che sono i sacconi che vengono presi dai muletti con quattro bretelle, diciamo, sono dei grossi sacchi. E mio zio Bruno e mio padre Giacomo fanno crescere rapidamente l'azienda. Fanno un investimento ai tempi considerato folle, perché a Provaglio d'Iseo, ripeto che è un piccolo paese, costruiscono quasi 12.000 metri quadri di capannoni e di produzione, che è sicuramente di più di quello che serve per molti anni. C'è molto ottimismo e molto rischio nel fare questo tipo di attività, e continua sempre di più l'innovazione sulla parte dei big bags. E comincia a diventare uno dei nomi più importanti a livello italiano. Spariscono tanti e Saccheria invece cresce. Arriva l'era dell'informatica, ambito in cui il settore degli imballaggi negli anni 80 è ancora vergine. L'azienda fa un grosso investimento per un software gestionale, confermandosi precorritrice sulla strada dell'innovazione. Gli affari procedono, senza conoscere crisi. La ragione di questo successo sta anche nel prodotto in sé. Siccome i sacchi o i big bags vengono usati nel settore edile, plastico, alimentare per mettere la pasta o la farina, chimico, nel sacco può essere messo qualsiasi materiale che non sia liquido. Quindi se il settore edile in un certo momento è crollato, però il settore per esempio dei rifiuti speciali e quindi dell'amianto che vanno messi dentro questi sacchi è cresciuto contemporaneamente e quindi non ha mai subito grossi scossoni. C'è stato un anno, 2007-2008, i periodi della crisi, in cui la saccheria ha avuto dei cali di redditività, ma mai da compromettere la sua esistenza. Intanto i tempi sono maturi per l'ingresso in saccheria della terza generazione. Dopo una precedente esperienza di lavoro all'estero in altri campi, sia Luigi, voce narrante di questa storia, sia la cugina Luisa decidono di prendere in mano l'azienda ponendo ai propri genitori un importante condizio sine qua non. Tutti e due decidiamo di rientrare in Italia e affrontare il cambiamento in saccheria, con una condizione: che se i risultati economici ci fossero stati, ci sarebbe stato il graduale abbandono da parte dei genitori. Noi semplicemente decidiamo di completamente rivoluzionare l'azienda partendo dalla parte informatica e quindi portando tutto quello che si può portare sul cloud, perché entrambi, lavorando all'estero, questa esigenza di dover lavorare in cloud e quindi di dover lavorare non con la carta è fondamentale per chi viaggia. E quindi intraprendiamo una serie di investimenti sia sulla parte di produzione sia sulla parte di magazzino, automatizzando con un magazzino compattabile da 2000 posti pallet, sia dal punto di vista informatica usando l'RFID. Quindi noi cominciamo a importare alcuni concetti come il movimento della merce crea delle azioni automatiche. Immaginati cosa vuol dire fare un ragionamento di questo tipo per aziende in cui era ancora la matita e il foglio di carta per tenere segnate le posizioni in magazzino. La gestione della nuova generazione risulta vincente e porta all'azienda risultati economici non da poco, trasformando tutti i settori e ottimizzando le risorse sia tecniche sia umane. Bruno e Giacomo Franceschetti affidano la saccheria ai figli. Il passaggio di consegne è stato abbastanza rapido ed indolore, perché è stato molto deciso. Nel vedere questo cambiamento fatto in 6 mesi, fatto in totale autonomia, dà la fiducia ai senior di dire: ma forse è meglio che su queste cose, che magari facciamo un po' più di difficoltà a comprendere, lasciamo il passo a loro. E così abbiamo fatto su ogni settore. Noi, tanto per darti una cifra, siamo arrivati a una riduzione della carta dell'80%. Siamo anche una delle pochissime aziende bresciane che hanno firmato il welfare con degli indicatori per il premio reali, per esempio con, per alcuni settori, portare la riduzione della carta al 95%. Fiore all'occhiello di questa trasformazione in chiave 4.0 è il sistema di gestione dei flussi in magazzino, un software uscito dai confini dello stabilimento bresciano per essere venduto ad aziende con le stesse necessità. Abbiamo 3 grandi clienti. Uno è il più grande produttore di porte battenti italiano, che ha intravisto una soluzione per riuscire a gestire la crescita immane che sta avendo negli ultimi anni. La cosa forse più interessante è che noi abbiamo elaborato e brevettato una serie di algoritmi che posiziona la merce a seconda del comportamento probabile della merce stessa. Quindi un materiale che ha grande rotazione sicuramente sarà all'altezza degli occhi. Un materiale che ruota meno avrà delle posizioni un po' più difficili da raggiungere. Il secondo cliente è una piccola media azienda di cosmetica molto innovativa, sempre nel bresciano. Anche loro avevano questo problema di gestione dei lotti e dei prodotti, però addirittura poi con date di scadenza. Il terzo cliente è un produttore di tessuti per l'altissima moda, con un assortimento di prodotti grandissimo e quindi con sempre la problematica di dover far uscire la merce nella maniera più rapida possibile e senza errori. Inoltre poi la nostra soluzione ha anche costruito un software per evitare di fare l'inventario nel periodo peggiore dell'anno, cioè alla fine dell'anno. Noi, avendo un controllo, una reportistica molto moderna e su interfacce in Materialize molto, molto facili da gestire, riusciamo ad evitare i grossi buchi di magazzino che sono familiari al 99% degli imprenditori. Con un fatturato che sfiora i 20 milioni di euro, la saccheria Fratelli Franceschetti è diventata in poco tempo il terzo distributore in Europa di imballaggi flessibili e oggi dà lavoro a oltre 50 persone. L'ambizione per il futuro è quella di diventare l'Amazon del packaging industriale. Il futuro della saccheria va nella direzione di informatizzare ancora di più i processi in termini, per esempio, di rapidità di consegna. Noi abbiamo cominciato a stabilire delle differenze di prezzo a seconda dell'urgenza del prodotto. La battuta è che vorremmo diventare l'Amazon del packaging industriale. Ecco. C'è una quarta generazione, però è ancora troppo piccola. Pensa quando nel 2040 qualcuno mi proporrà di passare al DDT che si fa con un gesto. Spero di avere la stessa apertura mentale di mio zio Bruno e di mio padre Giacomo, sia io che Luisa, averla tutti e due, per poter accogliere l'innovazione come hanno fatto loro, che comunque aveva una componente di rischio. E questa propensione al rischio spero che la possiamo trovare anche Luisa ed io nei confronti di chi ci porterà nuove idee. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.